Questa canzone è dedicata ai vecchietti che cagano il cazzo sul pullman, cioè che si vogliono sedere. Ma io non mi alzo. 1, 2, 3, 4! Sono il pullman, sono il nonnetto, pensionato con le rugazze, la nonnetta senza capelli, senza dentiera, con le gambe sotte. Io non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman. Non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman. Sono in pullman, sarei una donna con tanti pacchetti, si vuole sedere. Io non mi alzo, chiama l'autista, vengo da me e mi mando a qualcuno. Io non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman. Non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman. Non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman, io non mi alzo il pullman. Non mi alzo il pullman, yeah! Cagano il cazzo ai giovani. Ah, yeah!